misura fatta ponte. Sopra queste onde attraverserò ogni monte col sudore sulla fronte, cercando il bene e cancellando le mie impronte. Marshall Beat Records. Siamo tutti qua, siamo tutti qua. Napoli. Siamo tutti qua, siamo tutti qua. Napoli. Siamo tutti qua, siamo tutti qua. Napoli. Tenopei, no di Napoli città. Nodo. Te gride buona ma non zin nisciuna. Te gagna nome e cognome con un schiaffone. Te mannaro non vatte mai io sola, roba sopravviver. C'è un coraggio in un leone, una bandera in un scorpione. Che sta Napoli, frate, come te la giariscer. Rinda 167 non passano manchi vivere. Aro fiere sempre cover, di mani chi l'ha usata. Perché niente resta buono su veleno la ducata. Chi te passo piacere, chi abuso pacchettina. Sa buffare anfetamina, chi va rumen sulla mattina. Chi va a Lucano per non guai che hanno fatto. Chi state fatti, chi riesce motivati. Chi invece state magnati. Ma alla fine è sempre bello quando spondo solo. Si perché Napoli è l'amore, chi sta in cielo e chi sta altrove. Non ti basta una cartina per girare ta guan. Che non ti serve una cartina per dire sto fatto. Siamo tutti qua, ci trovi solo di qua. Partenopei di Napoli città. Siamo sempre qua, ci trovi solo qui fra. Nudi in mezzo alla savana, ne usciamo coi cincilla. Siamo tutti qua, ci trovi solo di qua. Più forest, tiri di Forrest Gump. Siamo sempre qua, ci trovi solo qui fra. Si agge solo, embra non c'ha una mai mancata. Rindivichi sti quartieri, può capi come si va innanzi. Come si arrangia, mezza paranza. Rindivichi sti quartieri, trovo sempre vanno spasa. Se agge a tavola, cu carrettina per da far attare. Tenimmo tanti cose belle, Piazza Cavour, San Gregorio Armeno. Certo sopra, sepe i cuscinieri, Pusil, Vavomar, Margellina. Piazza Vanvitelli, Belvedere e San Martino. Napoli non si può descrivere, rinda una sola canzone, che delusione. Napoli è quella che mi manca quando stongo sempre fuori. Non mi serve una cartolina per mi buttando un cor. Perché è l'amore che è più forte. Non si combatte il male facendo del male. Il bene è l'unica cosa che ci può sempre stare. Non ti basta un cappello a annuire per cagnare sto luogo. Ha già vissuto l'inferno ma mo sto buono. Siamo tutti qua, ci trovi solo di qua. Partenopei di Napoli città. Siamo sempre qua, ci trovi solo qui fra. Nudi in mezzo alla savana, ne usciamo coi cincilla. Siamo tutti qua, ci trovi solo di qua. Più forest, tiri di Forrest Gump. Siamo sempre qua, ci trovi solo qui fra. Si agge solo, embra lo, non c'ha una mai manca. Non ve ne ha, ne è fernuto. Sta nata a parte. Stamma sempre qua. Stamma sempre qua, stamma sempre qua. National Marshall Beat Records. Siamo sempre qua, siamo sempre qua, siamo sempre qua. Partendo vedi Napoli città. Ridello tutto rindi test, Napoli sempre state. Non serve a niente a calamite se non c'è sta fear. Scugnizzi di quartiere, un boss che non si vede. Perché chi muove certe cose non sta innanzi ma sta rete. Non si vede, non si crede. I piani alti che toccano cielo, grosso come colonnine. Rida dar per l'aereo, è inutile che spier. Casi di porte nell'angopus e non torna a rete. Ma in tutto questo c'è sempre qualcosa di buono. In tutto questo c'è sempre qualcosa di nuovo. Tenimmo cuore che ci fatte sempre accinto a loro. Guagliuno non duri morse, cresciuto in una fossa. Che si hanno fatto l'osso, pigliano la vita a morse. Perché chi non è giusto, la rado sulla morte. E mentre sta burocrazia, mangia un coppo. Un sistema va già innanzi, e chi se ne fotte. Siamo tutti qua, ci trovi solo di qua. Partenopei di Napoli città. Siamo sempre qua, ci trovi solo qui fra. Nudi in mezzo alla savana, ne usciamo coi cincilla. Siamo tutti qua, ci trovi solo di qua. Più forest, tiri di Forrest Gump. Siamo sempre qua, ci trovi solo qui fra. Si agge solo, embra low, non c'ha una mai manca.